Sai cosa penso di te? Troppo facile, parole sprecate, bruciate per quel che può servire. Rimarrà per me nei miei pensieri. È inevitabile, perché le cose infinite che forse non ci apparterranno mai, o per casualità domani, quando avremo già ucciso il pensiero per cui tu